Letture di Radio 24. Facebook, che il prossimo 4 febbraio compirà 10 anni, ha modificato completamente il nostro modo di relazionarci con gli altri e di integrare la vita reale con quella virtuale. Ma ognuno di noi ha un modo diverso di utilizzarlo. Sulle pagine di Panorama, Giuseppe Scaraffia prova ad elencare una serie di tipologie di utenti. Facebook è un villaggio un po' limitato, ma sereno, in cui tutti si entusiasmano per le canzoni più banali, si vantano di avere apprezzato i libri più inesistenti e di avere svacanzato nei posti più prevedibili. A poco ho cominciato a distinguere una serie di categorie. Gli albumisti, che espongono le foto dei genitori da giovani o di se stessi all'alba della vita, accompagnate da commenti esaltati che trovano subito insospettabili eco. Gli esibizionisti, che ostentano pettorali scultorei, seni radiosamente rifatti, gambe prolungate da tacchi 16 fra gli applausi dei voyeur. I firmisti, che insistentemente chiedono appoggio alle cause più strambe. I gradischi, che esigono il gradimento a pagine che portano il loro nome. I giocagio, che propongono di partecipare a strani giochetti sul web. Le lamentatrici, ragazze tormentate da un eccesso di corteggiatori che pensano solo a venire al dunque. I dimissionari, che annunciano regolarmente il loro addio al corrotto Facebook, salvo poi riapparire dopo poco con un nuovo account. Gli anatemisti, che lanciano maledizioni ed esigono il rogo per coloro che detestano. I volpini, che appena ti esce un libro, ti scrivono invitandoti caldamente a leggere e a promuovere la loro prima opera. I solisti, che gemono senza sosta sulla loro solitudine, spiegando involontariamente perché tutti li evitano. I provocatori, che fotografano un piatto di pasta al ragù chiedendosi «cosa c'è di meglio?» alla faccia di chi è in dieta perenne. I figliomani, che fotografano imbarazzanti pargoli ormai maggiorenni con didascalie intimidatorie del tipo «ditemi che non è bellissimo», facendo piovere terrorizzate conferme. Gli autocensori, che esaltano anche il più piccolo commento al loro romanzo. Gli uccisori dell'uomo morto, che si accaniscono sul perdente di successo del momento, stupendosi del proprio ardire. I bestiofili, specie sempre più diffusa, che postano con lirici accenti foto di cani e gatti fortunatamente inconsapevoli. I male amati, che riferiscono ogni delusione amorosa per farsi incoraggiare dai fan. Le pompe funebri, con tanto di annunci singhiozzanti e condoglianze frementi. Gli egolatri, i «pronto come sto?», che non capiscono come ci si potrebbe occupare di altro che di loro. Gli intimidatori, che chiedono commenti a ogni loro sproloquio. Infine, i voyeur della stupidità umana, come me, incantati dalla sua abissalità, ristorati di tanto in tanto da una bella foto o da una buona citazione. Con 3.123 amici che non sanno chi sono e comunque non gliene importa niente, Facebook è tutto questo, la grande sala d'aspetto dell'umanità. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Giuseppe Scaraffia, Tutti i tipi umani che incontri su Facebook, da Panorama del 5 febbraio. The way you sing unlocks my heart, just like a key, and brings you right back home to me. Letture di Radio 24. In Giappone, dove è normale avere dei contratti che prevedono 60 ore settimanali, che possono arrivare a 90 se si contano anche gli straordinari, sono sempre più numerosi i morti e i suicidi da lavoro. ma molte aziende preferiscono che non se ne parli per evitare danni alla produzione. Karoshi è una parola che terrorizza i giapponesi. Se la si dice a voce alta, si viene zittiti. Karoshi vuol dire morte da troppo lavoro. È un vocabolo apparso per la prima volta nei dati statistici del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese nel 1987. I casi accertati di Karoshi sono aumentati vertiginosamente a partire dagli anni 80 e 90, quando il paese del Sol Levante fu messo in ginocchio dalla bubble economy. Da allora il numero delle morti per troppo lavoro è sempre aumentato. Attualmente sono circa 9.000 all'anno. Le industrie in difficoltà licenziano personale, ma triplicano, quadruplicano il carico di lavoro dei dipendenti. Ci sono stati karoshi di operai che avevano fatto anche 300 ore al mese di straordinario, 10 ore al giorno oltre il turno regolare di 8 ore. Se si calcola il tempo del viaggio casa-lavoro e ritorno, minimo un'ora, rimangono appena 4 ore per riprendere fiato in famiglia, o ciò che rimane di essa. Non si pensi però a un lavoratore sfrenatamente avido di guadagni. Infatti l'enorme montagna di ore di straordinario non viene né registrata né retribuita. Una buona parte di queste ore sono graziosamente definite furoshiki, nascoste nel fagottino della spesa, perché i dipendenti le fanno a casa, dove con il tacito consenso dei manager continuano il lavoro che non sono riusciti a terminare negli orari regolari, in ufficio o in fabbrica. In ogni caso, comunque e ovunque siano fatte, a nessuno salta in mente di poterne esigere il pagamento. Sono il pegno di lealtà verso la ditta. L'organizzazione sindacale mondiale Labor Force Survey ritiene che una settimana tipica di un lavoratore giapponese, sia esso operaio o quadro dirigente, va da 70 a 90 ore. Le autorità governative e le ditte fanno fronte comune nel limitare al massimo la classificazione di karoshi per morti improvvise di lavoratori, anche di fronte a casi assolutamente palesi. L'Ispettorato del Lavoro ha negato la definizione alla morte per infarto di un camionista di 42 anni che aveva totalizzato circa 17 ore giornaliere, senza un giorno di riposo, negli ultimi 7 anni di lavoro. Con questi dati agghiaccianti è facile comprendere come dal karoshi si scivoli facilmente nel karoishatsu, suicidio per troppo lavoro, una tendenza che si impenna sempre più, parallelamente a quella del karoshi. Un'inchiesta governativa ha rivelato che il 90% dei lavoratori intervistati non capisce la necessità di cercare un equilibrio tra vita privata e lavoro. 4 lavoratori su 5 si dicono sempre pronti a cancellare qualsiasi impegno della loro vita privata se il capo chiede loro di rimanere a lavorare in straordinario. L'aumento di rilievo mediatico del fenomeno sociale e le prime battaglie sindacali vinte dalle famiglie delle vittime dei karoshi sono state un campanello d'allarme per le grandi corporazioni che hanno deciso di prendere iniziative per smarcarsi dal fenomeno. Ipocritamente alcune ditte dalle 7 di sera lanciano ogni ora un messaggio con gli altoparlanti in cui si ricorda ai dipendenti che troppo straordinario fa male alla salute. Il karoshi è figlio deforme della lean production e della qualità totale giapponesi che tanto filo da torcere hanno dato e danno ai concorrenti occidentali. Ma quando ci estasiamo davanti alla perfezione di un prodotto dell'industria giapponese, non dimentichiamo che assieme all'innegabile valenza e all'estremo impegno dei lavoratori, esso può celare abissi di dolore e sacrificio. Una riflessione che può aiutarci ad apprezzare la nostra sciatta felicità. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Silvio Piersanti In Giappone, dove morire di lavoro è una vergogna sociale, dal venerdì di Repubblica del 24 gennaio. Quando si parla delle violenze commesse durante il regime comunista nei paesi dell'est europeo, si tende spesso, ancora oggi, a giustificarle o a minimizzarle, in base a presunte ideologie umanitarie. Ma la testimonianza di Dagmar Šimkova, rinchiusa per 14 anni in diverse carceri comuniste cecoslovacche a causa della sua attività politica, dimostra che quelle ideologie erano la negazione stessa di qualunque forma di umanità. Era un complotto premeditato, scientifico, contro ciò che distingue un essere umano dalle altre creature, racconta la Shimkova nel suo libro Io, numero 1211, distruggere la coscienza dell'io umano perché cessi di esistere. Uno degli espedienti della polizia segreta era la cella di punizione. Quelli che non confessarono spesso pagavano con la vita, come padre Tufar di Chiosh, che si era rifiutato di ammettere di aver costruito il meccanismo ingegnoso che durante la messa aveva fatto muovere la croce sull'altare e che invece era stato montato nella sua chiesa dalla polizia segreta. Il miracolo di Chiosh fu l'evento sensazionale dell'epoca. Il partito giudicò opportuno convincere il popolo che la religione era un imbroglio e una perversione. Dopo che padre Tufar fu avvelenato con un acido che gli aveva perforato lo stomaco e ucciso a calci, il procuratore dottor Urvalek indossò la sua veste bianca e i suoi paramenti e nella chiesa di Chiosh fu girato un film su padre Tufar l'imbroglione. Ma i compagni, che non conoscevano la liturgia, si erano dimenticati che in avvento non ci sono fiori sull'altare. E il procuratore, nel ruolo di padre Tufar, proclamò il Vangelo da un luogo inappropriato. Il film venne proiettato in tutta la Repubblica e molta gente ribollì di indignazione contro la Chiesa imbrogliona. Una copia del film fu mandata di nascosto in Vaticano. Così alcune persone nel mondo libero vennero a sapere che le terre ceche avevano un nuovo martire. Dietro il filo spinato e il muro del campo si trovavano le celle di correzione. Non c'era niente di più facile che entrarci. Per i vocaboli inglesi, per aver fumato in cella, per il reggiseno confezionato con i ritagli di stoffa presi in sartoria, per la protesta, l'obiezione, per aver fatto visita agli amici in un altro blocco, per essersi rifiutati di lavorare la domenica. C'era sempre qualche insidia che ti portava in cella di correzione. Oltre alla cella di correzione, c'era tutta una serie di altre punizioni. La sospensione delle lettere provenienti da casa, la revoca delle visite. In cella di correzione non si lavora e così non è possibile sbrigare la quota di lavoro prevista dal regolamento. Di conseguenza si viene puniti. Si ricevono razioni di cibo ridotte e dopo essere stati scarcerati si deve pagare una multa per non aver sbrigato la propria quota di lavoro. In cella di correzione ti danno da mangiare solo una volta ogni 3 giorni. Le celle si trovano in cantina. Alcune hanno il pavimento di cemento e un letto di cemento senza pagliericcio. Al posto del gabinetto c'è un secchio che nel migliore dei casi viene svuotato una volta al giorno. In quell'occasione è possibile lavarsi le mani, ma solo le mani, al rubinetto dell'acqua in corridoio. Le pareti ammuffite della mia cella sono umide. Anche la mia uniforme è umida. Tolgo il cappotto e mi sfrego le braccia per riscaldarmi. Accelero il passo, 4 passi avanti, 4 passi indietro. È il mio 110° giorno di cella di correzione della mia vita carceraria. Quanti ne dovrò fare ancora? Ci siamo rifiutate di lavorare di domenica e abbiamo passato il Natale in cella di correzione. Ma ormai manca poco. Tra 2 o 3 ore la mia punizione finirà e ci riporteranno nel blocco. In corridoio si sente un grido, gemiti, urla di terrore e rumori di lotta. Raggiungo di corsa la porta di ferro con la piccola finestrella dalla quale ci passano il cibo. Non è ben chiusa e così attraverso una fessura riesco a vedere l'interno dell'ufficio illuminato e riscaldato. I sorveglianti stanno trascinando per terra Olga Turkova, la pazza. La prendono a calci nella pancia, le hanno spaccato la faccia, si rotola nel vomito e nel sangue. La Turkova striscia per terra, abbraccia le ginocchia dei sorveglianti e implora piangendo: «Non picchiatemi più». «Non picchiatemi più. Sapete che ho fatto tutto ciò che volevate. Lei mi ha dato la marmellata perché andassi a testimoniare contro la Zenalikova. Signor comandante, lei sa che ho picchiato la Erzanova quando mi ha mandato da lei». Ancora calci. Ora la prendono a pugni in testa e sulla faccia. «Basta, per pietà, non ce la faccio più!» grida la Turkova. «Lasciatemi, lasciatemi, farò tutto quello che volete!» Nelle cantine di Pardubice non c'erano solo le celle di correzione, ma anche la sezione isolamento. Vi erano rinchiuse le donne che, a causa della pazzia o di qualche perversione sessuale, avevano rallentato il piano di produzione. Giorno e notte si sentono provenire dal sotterraneo lamenti, mugolii, grida di aiuto. I sorveglianti ridono e vanno a guardarle come si guardano le belve portate dalla giungla. La violenza attorno a noi aumenta. Ci sono risse ovunque. Siamo lasciate in balia delle più forti. Ormai non possiamo più lasciare in bagno nemmeno un pezzetto di sapone, che ce lo rubano davanti agli occhi. Non possiamo più neppure andare a fare la doccia, perché c'è sempre qualcuna più forte che ci manda fuori. Non abbiamo più un attimo di respiro, solo urla, insulti, brutalità, paura e il sonno spezzato dalle grida disperate dei pazzi. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Dagmar Scimkova, Io, numero 1211, edizioni paoline, 202 pagine, 17 euro.